veloce e vediamo che va a prendere la testa. Vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori. Questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Buonasera, eccoci a Radio Wombat, al programma 3000 siepi. Siamo Gine e Gino. Eccomi. E nella puntata potete seguirci nel sito wombat.noblogs.org in streaming o riascoltare i podcast. Poi ci sarebbe tutta la sequela di social che vi dirà Gino, perché è lunga. No, io i social non li dico. Mi sono rifiutato, faccio obiezione di coscienza a questa cosa. Se volete ci cercate, solo Facebook, Twitter, quelli là, ma io non li dico. Una domenica in pigiama per noi oggi. No, per te. Io sono sveglio dall'alba. Sì, lui è sveglio dall'alba. E qualcuno doveva venire a correre con me, ma non è venuto. È vero. Sta qua di fianco. È vero. Non c'è nessun altro a parte la Gina. Avrei voluto, ma ieri Gino mi ha coinvolto in una fantastica serata ballerina Nord and Soul e quindi... Ma se non balli, cioè non ha fatto niente tutta la sera, cioè atleticamente ha fatto schifo proprio. È facile per voi ballerini Nord and Soul quando si sparano il talco sul pavimento, perché la Nord and Soul si balla col talco sparso per il pavimento, ecco perché fanno tutti quei volteggi incredibili. Non svelare i trucchi. Non sono d'accordo, questo è doping, non saprei come chiamarlo. Però. Io comunque ballo con le scarpe da trail, quindi per me il talco è come se non ci sia, c'ho grip anche sul talco. Va bene, possiamo cominciare la puntata di oggi, inizio io. È arrivato il momento in cui parliamo un po' di De Coubertin, perché è il fondatore delle Olimpiadi moderne e nello specifico andiamo a vedere quello che era il suo punto di vista rispetto alla partecipazione femminile allo sport, ai giochi olimpici in particolare e alla donna che l'ha sfidato, Alice Milliat. Allora, Pierre de Coubertin era misogino e su questo punto non ci piove. E nel 1912, durante un'edizione olimpica, affermò proprio sulla rivista ufficiale del Movimento Internazionale Olimpico, la Revue Olympique: riteniamo che i giochi olimpici debbano essere riservati agli uomini. Forse che domani ci saranno delle corritrici o delle giocatrici di football? Questi sport praticati dalle donne costituirebbero uno spettacolo raccomandabile davanti alle folle. Questi sport praticati dalle donne costituirebbero uno spettacolo raccomandabile davanti alle folle che un'Olimpiade riesce a riunire? Riteniamo che non si possa pretendere una simile cosa. Non soddisfatto, rincara la dose sulla rivista del CIO, che sarebbe il Comitato Olimpico Internazionale, che tra l'altro ha sede a Losanna, dove si possono trovare anche i documenti e le carte e tutto quello che riguarda Decubertin, quindi volendo rintracciare anche dei documenti lì è possibile. Insomma, non contento rispetto all'attività sportiva femminile, dice: non pratica, non interessante, inestetica, scorretta, tale sarà secondo noi questa mezza Olimpiade femminile. Non è questa la nostra concezione dei Giochi Olimpici, nei quali riteniamo che si cerchi l'esaltazione di questa formula, l'esaltazione solenne e periodica dell'atletica leggera maschile, che ha come base l'internazionalismo, l'onestà come mezzo, l'arte come ambito e l'applauso femminile come ricompensa. Queste parole fugano comunque ogni dubbio su quella che è la concezione generale sulla donna del signor Pierre de Coubertin, e per il quale lo sport femminile era sì praticabile, ma al di fuori del contesto olimpico. Adesso vi lascio riflettere un po' sulle splendide parole di de Coubertin e mandiamo un pezzo. Questa è Anna Tijoux, Antipatriarca. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me... C'è un errore tecnico, errore tecnico, colpa di nuovo della È colpa Gine, è della così. Gine, però ci tenevo a far sentire il Almeno i pezzo. primi 38 secondi è una bomba, cioè per i primi 38 secondi, il problema è che dura solo 38 secondi e poi Ma si non possiamo ripete metterlo da ad YouTube? oltranza, per sempre. Possiamo, ma non mi puoi chiedere questa cosa adesso, è troppo difficile parlare a YouTube dopo. Ora vai avanti e poi dopo rifaremo sentire Anna Tijoux, Va bene, antipatriarca. va bene. Peccato. Comunque. Come entrano quindi le donne alle Olimpiadi? Grazie alla determinazione nel portare avanti la lotta per l'emancipazione femminile da parte delle società sportive femminili francesi, di cui Alice Millat era presidente, tra l'altro nuotatrice e canoista, e grazie anche al paraculismo di Pierre de Coubertin. Andiamo a vedere cosa è successo. Allora, Alice Millat era bretone e iscritta alla società sportiva Femina Sport di Parigi, fondata nel 1911, che con altre società femminili poi formerà la Federazione delle Società Sportive di Francia. E la stessa Alice Millat era comunque attiva all'interno del movimento femminista internazionale, sostenuto a sua volta dalle associazioni sportive femminili del Nord Europa. Allora, siccome abbiamo detto che Alice Millat praticava dello sport e le piaceva, a lei come altre donne, in risposta a De Coubertin nel 22 organizza le prime Olimpiadi femminili, les Jeux Olympiques Féminins, boh, chissà come si pronuncia, dove parteciparono donne dalla Francia, dalla Cecoslovacchia, dall'Inghilterra, dall'Italia e dagli Stati Uniti. E in totale ai giochi parteciparono 77 atlete e assistettero 20.000 spettatori, il che rappresenta un grande successo. E comunque alla competizione parteciparono donne delle classi sociali meno abbienti. E anche questo era un po' in contrapposizione a quelli che erano i giochi olimpici ufficiali, perché abbiamo detto che la competizione nello sport principalmente era accessibile solo da borghesi e aristocratici in quegli anni. Quindi il successo del 22 viene rinforzato nel 26 con l'edizione di Gothenburg, e che era un'edizione appunto in Nord Europa, ora credo sia in Svezia, Gothenburg. La mia ignoranza geografica. Gino Non ti posso aiutare, si guarda il guardavo il soffitto, vuoto, forse è no? la risposta. Sì, perché era un omaggio alle società sportive svedesi, poiché i paesi scandinavi e quelli dell'Inghilterra riconobbero molto prima lo sport femminile rispetto ad altri paesi europei. Quindi abbiamo detto edizione del 22 a Parigi, del 26 in Svezia, ne seguirono altre due, del 30 a Praga e del 34 a Londra. E se siete attenti ascoltatori noterete che la cadenza è quadriennale e quindi è abbastanza evidente la provocazione rispetto ai giochi come erano stati ai giochi impostati da Coubertin, ai giochi ufficiali. Ecco, ora manderei un altro pezzo in onore a Gino che mi ha fatto scoprire la musica a Calypso. Boh, che cosa carina. Grazie. Questo, sperando che funzioni, questo è Calypso Rose. Questo c'è tutto. Questo è 3 minuti e 13 di pezzo. Bene. Calypso. Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I've been reigning too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. Everywhere I reign too. The one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. Them foolish and petty men, I don't worry about them. They've been trying to take me down, but to the end I retain. Forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. They used to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso. Singing on. They say that I've been reigning too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. Continuiamo la nostra storia. Quindi abbiamo detto che la partecipazione femminile è stata po possibile alle Olimpiadi grazie alla determinazione di Alice Milliat e di tutte le società sportive femminili e al paraculismo di Pierre de Coubertin. Perché al paraculismo di Pierre de Coubertin? Perché de Coubertin, dopo il successo delle Olimpiadi femminili del 22 e delle successive edizioni, annusa un po' la minaccia. che si possa creare un'alternativa a quelli che erano i giochi da lui creati. E quindi cosa fa? Manda una specie di moderatore, lo svedese Siegfried Edström, che era il presidente della Federazione Internazionale dell'Atletica Leggera, IAAF, dalla Milià, e gli fa proporre di eliminare il termine olimpici, che seguiva alla parola giochi, in cambio della partecipazione femminile alle gare di atletica leggera che si svolsero ad Amsterdam nel 1928. Quindi De Coubertin è stato sostanzialmente costretto a capitolare, e questo ha costituito una vittoria politica poi per quello che è stata l'emancipazione femminile nello sport. E ricordiamo che lo stesso De Coubertin, nella prima edizione dei Giochi di Atene del 1896, aveva addirittura voleva mantenere l'antico rito greco, per cui non solo le donne non potevano partecipare, ma non potevano neanche assistere ai giochi olimpici. Alice Millià si dichiarò molto soddisfatta della possibilità di poter partecipare, insomma, per le donne alle Olimpiadi, e dichiarò rispetto alle donne che un essere sano fisicamente e moralmente senza timore, delle responsabilità e pronta a far valere i propri diritti in tutti i campi, senza perdere la grazia e il fascino. E io ho finito qui, vi mando un pezzo, l'ultimo pezzo, questa è Kenny Arcana, Fil du Vent. Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible. Ici, fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui. Au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu, j'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine, digne ennemie de la routine, la tête pleine de rimes, à l'heure où leur monde s'engloutit. Sans longtemps, je suis parti là où le soleil a le sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, croire en qui, monde glacial, froid banquise, être instable, pas tant pis. En vie, tant que l'aventure m'appelle, c'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres. De train en train, je suis parti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion, una vita loca, ma vie un hymne à l'audace, tous à nos places. Jamais la terre est mon pays, pèlerinage ou périple, être libre ou périr comme un filet d'eau pure sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, l'ouvrant, je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement, tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens, comme toi mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher, jusqu'au lever du jour où quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé entre les marées. La vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience, comme une lame allumée, je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas s'il système, je déserte, appelle-moi. Fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent, parce que je combats l'inertie. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Appelle-moi, fille du vent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Eccomi qua, ora ritorno io, la Gina ha finito il suo pezzetto e io volevo iniziare la mia parte con riprendendo il discorso dell'altra volta, perché se siete degli attenti ascoltatori, se no ve lo ricordo, avevo promesso che vi avrei svelato il retroscena dell'attività scacchistica di Karl Marx. E quindi sono andato a studiare e ho trovato un sacco di cose interessantissime, proprio del gossip su cosa. La prima notizia è che l'altra volta vi dicevo che Marx aveva perso arrabbiandosi moltissimo una partita a scacchi con un altro personaggio famoso che avevo ipotizzato potesse essere un grande scacchista. In realtà non era un grande scacchista, ma era un suo amico e avversario politico. Aveva perso con Liebknecht, che era uno dei leader, diciamo, dei socialisti. Quindi loro consumavano le loro dissidie ideologiche negli scacchi. E addirittura, siccome Marx era in realtà una specie era un po' un nerd degli scacchi, ma non era bravo. Non era bravo, tutti definiscono il suo stile un po' impulsivo, un po' iroso, non pensava tanto alle mosse, così. E però era anche appassionatissimo e quindi passava tantissimo tempo a studiare questa cosa. Un giorno pare avesse messo a punto una tecnica, secondo lui, che era una bomba. E ha sfidato il suo amico Liebknecht, che all'inizio delle partite effettivamente la tecnica funzionò. Dopo la seconda, però, che tu fai sempre le stesse mosse sostanzialmente, poi l'altro, se non è scemo, te le capisce, e ha iniziato a perdere Marx. Però da vero giocatore non voleva mai smettere. E pare siano andati avanti a giocare con Marx che perdeva sempre, fino alle 3-4 del mattino, e lui voleva ancora la rivincita, cioè avrebbe potuto giocare fino all'alba, così. Poi sono stati interrotti dalla governante di Marx, che ha detto adesso basta, il signore deve andare a letto, c'è anche una certa età. E pare che il giorno dopo la moglie di Marx abbia contattato Liebknecht, che gli ha detto: guarda, per favore non venire più a giocare a scacchi con il buon Carlo, perché lui ci rimane sotto e poi diventa insopportabile. Cioè, praticamente lui, se perde, diventa insopportabile. E siccome io ci devo vivere insieme alla governante, facci sto favore e non giocate più a scacchi in casa. Cioè, potete giocare fuori casa. E poi, secondo me, gli ha anche detto: per favore fallo vincere qualche volta, perché lui se ne ha un sacco altrimenti. E poi ho scoperto anche un altro aneddoto buffo, molto, molto buffo questo, che pare che cioè la partita proprio più famosa che lui ha giocato era contro un giocatore semiprofessionista, che ora non ricordo precisamente, però è una partita che è avvenuta addirittura a un ricevimento dato da un famoso maestro di scacchi, Newman, che però io non conosco perché sono ignorante nella storia degli scacchi. E comunque lui non ha giocato con il maestro, ha giocato con un altro, però in una sera molto particolare, perché pare che lui quella sera fosse tutto in fibrillazione, perché gli dovevano arrivare le prime copie della stampa del Capitale, e quindi era felice ma anche tormentato da questa cosa, era un po' in ansia, era in trepidante attesa. Allora lui pare che questa partita, è stata ricostruita poi dagli storici successivamente, le prime 22 mosse abbia fatto abbastanza schifo. Poi la partita è stata interrotta, perché i camerieri hanno consegnato a Marx le copie del Capitale, cioè gli è arrivato il plico. Allora lui, diciamo, passata la fase ansiogena, ne è stato talmente rinvigorito che pare abbia sbaragliato l'avversario. Però il retroscena è questo. Questa partita in realtà è stata ricostruita, ed è stata ricostruita da degli storici sovietici, e pare che sostanzialmente non era vero che stava giocando Marx. Nel senso che pare che questa partita, che è stata ricostruita nel tempo postuma e quindi è documentata, ci sono proprio tutte le mosse, eccetera, aveva suscitato già dei dubbi tra gli esperti, perché, conoscendo la fama di Marx, hanno detto: la partita è giocata troppo bene. Cioè, cioè le mosse erano troppo ganze, un giocatore dilettante strano che sia così, e si vocifera che in realtà gli agenti segreti delle russi abbiano un po' rimaneggiato le carte, facendo passare una partita giocata effettivamente tra questo giocatore semiprofessionista e un altro, che si chiama esattamente come lui, ma con il CS, il KS, quindi si legge comunque Marx, più o meno, però che in realtà era un giocatore professionista, il signor Mark Marx. E siccome però in cirillico diciamo, si scrivono uguale, cioè Marx e Marx col KS, si scrive nella stessa identica maniera, loro hanno avuto gioco, hanno detto: vabbè, ma facciamo che giocava Carlo, e così è passata alla storia questa partita, che su alcuni siti di maniaci che ci sono in rete, se cercate Marx Scacchi trovate un mondo di matti, è ricostruita tutta la partita mossa per mossa, quindi ve la potete anche rigiocare a casa, fortissimo, no? E all'uopo vi volevo fare ascoltare un pezzo che non c'entra niente, però è tedesco, visto che poi il resto della puntata io la farò raccontandovi delle associazioni sportive in Germania fino diciamo, all'ascesa del nazismo, e vi volevo far ascoltare i Kraftwerk con Numbers, che non c'entra niente, però gli scacchi, i numeri, insomma, si assomigliano, no? Cioè, insomma, più o meno. Due, Sanchi. Ich ni Sanchi. Ich ni Sanchi. Ich ni Sanchi. Sfumiamo questo pezzo, tanto stava leggendo i numeri in giapponese, Ichini, Sans, Shi, ve lo dico io, a è giapponese. Mi sarebbe piaciuto molto, sono sicura. I Kraftwerk senz'altro, secondo me sarebbe stato un grandissimissimo fan. E allora parliamo della Germania. La Germania è in realtà un soggetto, dal nostro punto di vista, abbastanza interessante, perché le associazioni sportive di sinistra in Germania nascono essenzialmente da una scissione delle organizzazioni sportive ufficiali, non voluta, ma causata dalle leggi antisocialiste che Bismarck aveva promulgato, per cui tutte le associazioni sportive, cioè la parte diciamo di sinistra delle associazioni sportive è stata cacciata, e quindi hanno fatto un mega esodo, che però si è tradotto nel fatto di avere in realtà delle strutture enormi e super organizzate, cioè rispetto all'Inghilterra e rispetto a soprattutto all'Italia, di cui avevamo narrato la volta scorsa, in cui i club in Italia proprio non c'erano e in Inghilterra si contavano comunque nelle poche decine. In Germania in realtà si parla di centinaia di migliaia di aderenti, e la prima grossa struttura che formano è la Lega Ginnastica Operaia. È interessante diciamo l'approccio che hanno allo sport, e vi leggo questa frase d'Antan, che ha uno spirito proprio tipico dell'epoca, però rende bene. Tra i loro scopi questa Lega Ginnastica Operaia si propone di, anzi ve la leggo tutta così si capisce meglio: la classe operaia cerca di sollevare il proletariato, di migliorarlo, di liberarlo dal peso della classe sfruttatrice, anche per quanto riguarda il corpo e lo spirito. I nostri impegni di ginnasti operai sono di fortificare i corpi e di renderli più resistenti per far fronte a tutti gli svantaggi fisici che porta con sé il moderno processo produttivo. Educare i giovani proletari a diventare degli uomini forti, amanti della vita, pieni di salute e di energia, questa è la missione dell'ATB, che era la sigla che io non vi dico perché non so il tedesco, però che stava per Lega Ginnastica Operaia. All'uopo si parla solo sempre di uomini, ma attenzione, c'è il colpo di scena per ricollegarsi a quello che diceva le Olimpiadi femminili, la Gine. E c'è un'altra associazione molto grossa, cioè con tantissimi aderenti, che è l'Associazione Socialista Lavoratori Ciclisti, attenzione, che apre sostanzialmente alle donne, nel senso che tra i paletti fondanti è quello di essere aperta anche alla partecipazione femminile. Ed è interessante notare i numeri, nel senso che le donne aderenti sono 7.600 nel 1919, non so quante migliaia in realtà di maschi, però già nel 1932 invece erano più di 50.000. È interessante notare che un'associazione del tutto simile, che però viene definita qua dal nostro libro, che è un mattone in realtà, che si intitola Sport e Rivoluzione, è un'altra associazione borghese, che era l'Unione Velocipedisti Tedeschi, erano iscritte soltanto 644 cicliste, su un totale di 80.000 iscritti. Che è una grossa, cioè si vedeva come nell'associazione quella diciamo patrocinata dalla sinistra in realtà ci fosse un'ampia partecipazione femminile, e invece nella stessa, che pure era aperta era aperta anche alle donne, e la partecipazione femminile fosse pochina. E questo era diciamo per farvi il quadro. E poi è interessante che tutte queste organizzazioni, che contavano appunto centinaia di migliaia di iscritti, arrivano a costruire degli eventi completamente autonomi, cioè le Olimpiadi Operaie, che vi abbiamo già citato altre volte, che sono state svolte nella doppia edizione invernale ed estiva nel 1925. In particolare, noi vi abbiamo già citato in altre puntate i giochi olimpici che si sono tenuti a Francoforte, dove sono arrivati tra l'altro 1100 atleti da fuori, e era il motto c'erano 1100 atleti internazionali che partecipavano a questa cosa, e il motto di quell'edizione, quella estiva di Francoforte, era non più guerre, e quindi si caratterizzava con un approccio decisamente antimilitarista. E a questa, diciamo, l'Olimpiade è in realtà aperta da un grosso corteo che ha visto la partecipazione di più di 100.000 persone, sempre sulla tematica della guerra. E c'era anche, buttato lì così, una grossa rappresentazione teatrale di massa, che mi piacerebbe approfondire che cos'era, perché mi affascina, che mise in scena uno spettacolo fondato sulla caduta del capitalismo e l'avvento del socialismo. Questo succedeva nel 1925 in Germania. E ora, per rimanere in tema, proprio con i miei salti mortali, vi farò sentire 99 Red Balloon di Nena. Luftballons, credo, in tedesco, ma io non me lo volevo lanciare a dire. Questo in difficoltà. No, è che in realtà io non l'ascolto spesso il pezzo della signorina, e ascolto di più la cover punk fatta da... Ve lo dico dopo. Sowas kommt. einen Blitzversieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Eccomi qua, era Nina Gensi. Ho avuto un attimo di mi sono incrociati gli occhi e la mia mente è diventata vacua e quindi ho letto da YouTube Nena e era Nina Hagen, scusa Nina se ci ascolti, abbi pazienza. Sono... Comunque abbiamo sempre dei problemi col tedesco e... Ma abbiamo problemi nella vita, c'è del disagio qui oggi, stiamo male e... Così, sarà l'inverno, non lo so, la stagione, o qualcosa del genere, non lo so, sarà il referendum, non lo so. E, comunque, riprendendo la storia delle associazioni sportive di sinistra in Germania, chiaramente a un certo punto si scazzano e si scindono. Si scindono essenzialmente sullo sport interno, cioè su aderire o no allo sport. I socialisti non aderiscono, quell'altri sì, e quindi si scindono in due organizzazioni che comunque rimangono molto grosse. In particolare a quella che aderisce, si fa diciamo, anche il supporto di un autore non da poco e famoso, che era Bertolt Brecht, che si è espresso sullo sport e ora io vi vado a leggere l'opinione di Bertolt Brecht sullo sport, è una, cioè proprio due righe, non è che leggo a lungo. Lui pensava che lo sport, a lui piaceva lo sport, anzitutto, gli piaceva un sacco e lo amava in particolare perché lo sport è malsano e selvaggio. Ora, sul fatto che è malsano io sono d'accordo, io penso anche che la traduzione italiana forse di questo libro, malsano, non sia proprio esattamente quello che voleva dire, però è interessante perché effettivamente lo sport fa malissimo, cioè la Gine Dio siamo due esempi di persone atleticamente che ci provano, ma che stanno sempre male, perché fanno sport, cioè non facessimo sport magari avremmo delle vite normali come tutti gli altri, e invece stiamo male, così. E il signor Bertolt Brecht aveva anche scritto, aveva usato lo sport in una chiave di metafora politica in un suo credo, in una sceneggiatura per un lungometraggio che io non ho mai visto e forse non vedrò mai, non lo so, ora lo cercherò, però io ve lo leggo sempre con il mio tedesco perfetto. Il titolo del lungometraggio era Kühle Wampe, o c'è anche sottotitolo A chi appartiene il mondo? Punto di domanda, e lo scopriremo soltanto praticando un sacco di sport. E la chiosa della puntata è che comunque queste grosse associazioni sportive, che erano comunque una realtà abbastanza strutturata, di fatto non sopravvivono all'ascesa del nazismo e quindi spariscono purtroppo. E l'ultimo pezzo che vi facciamo ascoltare riferito a delle cose con un senso, dopo vi facciamo stare altra musica ma senza senso. No, c'è Antipatriarca. Ah sì, no, Antipatriarca, però comunque senza senso perché arriva fuori tempo massimo, cioè era il pezzo che dovevamo mettere all'inizio, però ne avevamo la versione tagliata dalla Gine di soli 38 secondi, che ti permette di apprezzare... assaporare, ora con un po' di suspense, adesso alla fine lo mettiamo. Ok, allora lo mettiamo per intero dopo, e il senso sarà quello. Poi mettiamo anche altri pezzi, ma non avranno più neanche quel senso lì, cioè andiamo verso lo sfacelo finale. E il pezzo che vi facevo ascoltare ora era Allerta antifascista degli ZSK, perché visto che quell'altri sono stati spazzati via, uno dice vabbè, consoliamoci. Allerta antifascista. Mehrere tausend Menschen heute in Dresden einen Aufmarsch von Rechtsextremen verhindert. Start now!

Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Di sfumare, perché effettivamente due volte nello stesso giorno ascoltare la stessa canzone da autori diversi è una cosa un po' maniacale, soprattutto perché avviene tutto nell'arco di pochissimi minuti e quindi ci siamo vergognati di questa proposta musicale e mi hanno detto di sfumare. Però chiudiamo con un pezzone che ora vi introduce la Gine, che salverà senza dubbio le sorti della puntata. Ma in realtà è un pezzo che riapre vecchie ferite su una diatriba sulla New Wave e la OI. E io ho sempre convinta che il pezzo New Age dei Blitz sia un pezzo OI. E adesso vi mando. Cioè, lo è, ma con chiare influenze New Wave. Assolutamente. Cioè, non no, è l'emblema dell'OI, capito? Non è che hai messo, no, sì, che ne so, If the Kids Are United, degli Sham 69. Mi cioè, hai messo. Non devi parlare, sei vergognoso. Ti devi vergognare. Devo ancora esporre le mie argomentazioni. E è un pezzo in cui la voce è abbastanza roca e aggressiva. E di certo il testo non induce al taglio di vene come spesso la musica New Wave invece fa, con tutta quell'introspezione, quel malessere interiore e quant'altro, quindi ora puoi controbattere. No, non controbatto più adesso, basta, io le mie ragioni le ho già dette l'altra volta, e il frontman dei Carlos Dunga è con me e io, forte di questa cosa, rimango sulla mia posizione. Allora, e non mi muovo. Lancia tu il pezzo, però, questo bel pezzo New Wave. Ma io non so neanche chi sono questi, ecco, lancialo te, dai. Che vergogna, sono uno dei gruppi New Wave più famosi della storia, sono i Killing Joke. Questa è Love Like Blood. Just in the field. deciso che si sfuma anche questo, perché la new wave comunque è noiosa, che sia che i Blitz lo siano o no. I Blitz non sono noiosi, ma la new wave un po' sì, dai. E quindi nulla, vi salutiamo, abbiamo concluso per oggi tra errori tecnici di pronuncia e puntata in pigiama, e vi diamo appuntamento a domenica prossima. Domenica prossima in realtà ascolterete una nostra registrazione, dal momento che non saremo presenti tutte e due qua. Io sì, ma faccio solo click e poi sto a mandare la registrazione e basta, perché facciamo una trasferta torinese, quindi ci ascolterete in differita dalla trasferta torinese. Avremo degli argomenti succosi e interessanti senza dubbio dal freddo nord, come se qui facesse caldo. No, non è così. Saluta Gin, ce ne andiamo. Ciao a tutti, allora domenica prossima, questo è 3000 Sievi che chiude, e ci potete riascoltare in podcast su wombat.noblogs.org, e quindi ciao. Ciao.